Set up. eres tan deprimente, un charlatán. No somos como tú. ¿De dónde sales? ¿Qué nos vas a contar? soffoco te guerriglia. Lo cielo qui per difendere batti sa vita. A fora del sarrasto lasciami uscire. Questa terra selvaggia vive nei civili. La casa dei lingi su miei reggenti usciti. Su voi uno strinzi minera panni di stanosi. Tra maniera pochissimo di condiziosi. Fuori un cappello che sta via. Con chi mi è sarregno, chi è sti moreni. Chi sovraimpegni, combattenti. Chi mi ha fuoco, tra baleni. Chi è sti morendi, mezzo se vuole partorendi. Che se ne è, papà, che sa ci è. Questa creatura la supporta. Suo che intende e poterai e vicinata. But ven lo que suelen ver. Ven, ser tal como es. Y no